Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 8 minuti. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia. Benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Una puntata che si apre all'insegna del rosso sui mercati finanziari. Un rosso che si è fatto molto pesante nell'arco del pomeriggio, anche se le borse stanno ritracciando in quest'ultima fase di giornata, a ridosso della chiusura, con il FTSE MIB che è arrivato a perdere il 3,5% e adesso cede il 2,15%, cede l'1,92% il FTSE All Share. Mentre decisamente meglio hanno fatto nell'arco della giornata le altre piazze finanziarie europee, con Parigi a perdere l'1,20%, Francoforte lo 0,43%, tra le peggiori anche Madrid, che ancora adesso cede circa 3 punti percentuali. Il tutto anche sulla scorta delle parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Le ascolteremo più avanti. Draghi ha detto parecchie cose anche sulle possibilità e sulla volontà di intervento da parte della Banca Centrale Europea. Al 349-238-6666 ci scrivete già: non mi sarei mai aspettato questa pugnalata alla schiena da parte di Draghi, anche lui gioca sporco. Ci spieghi esattamente che cosa vuol dire, perché poi questo è il tema che tratteremo più avanti, insieme naturalmente al tema dei mercati. Come vi dicevo, giornata molto negativa anche per quanto riguarda l'altro aspetto che teniamo costantemente monitorato, ed è quello dell'andamento dei titoli di Stato. Iniziamo dai rendimenti. Il rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni ha toccato il 6% di nuovo e adesso si attesta al 5,97%, quindi sostanzialmente siamo là. Lo spread, ossia la differenza di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, è a 457 punti, quindi anche qua in fortissimo rialzo, mentre cala invece il rendimento dei titoli di Stato tedeschi, ancora una volta all'1,40% quelli a 10 anni. Questo il quadro della giornata. Ovviamente torneremo a toccare il tema della cosiddetta spending review, ossia quella che impropriamente viene chiamata a volte taglio della spesa pubblica. In realtà è una revisione della spesa pubblica, o almeno tale dovrebbe essere. Ieri abbiamo sentito l'opinione di un economista che diceva, dal suo punto di vista, dalla sua posizione, tagliare la spesa in una fase di recessione può essere anche più pericoloso, può far avvitare la situazione. Oggi sentiremo un'opinione completamente diversa da questo lato. E poi torneremo sulla vicenda della manipolazione del tasso LIBOR da parte delle banche britanniche, in realtà non solo delle banche britanniche, anche di altre banche, come per esempio quelle svizzere. E ci torneremo perché sono circolate delle intercettazioni, delle mail, insomma dei documenti riservati, che parlano di un tentativo, quantomeno un tentativo, di maggiori dettagli non si sa, di manipolazione anche dell'altro tasso. L'Euribor, cosa sono questi due tassi? Sono i tassi ai quali le banche si prestano denaro l'una con l'altra, questo per farla molto semplice, ma sui quali poggiano anche tantissime transazioni finanziarie. Pensate solamente, per fare un esempio, all'indicizzazione dei vostri mutui. Naturalmente non l'abbiamo detto perché, insomma, l'avete sentito poco fa nel GR, tutto il pomeriggio che ne parliamo. La mossa della Banca Centrale Europea, giusto per completezza e informazione, è stata quella di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base. Come abbiamo sentito nei giorni scorsi, c'era chi si attendeva di più, c'era addirittura chi si attendeva che la Banca Centrale Europea rimanesse ferma. Vedremo di commentare tutto questo più avanti. Intanto facciamo un primo commento su questa giornata di mercato. Saluto Mario Spreafico, direttore investimenti di Schroders Italia. Buon pomeriggio, buonasera, anzi, buonasera Spreafico. Allora, a cosa dobbiamo? Tra l'altro le cose stanno migliorando in questi ultimi minuti, come si diceva, ma a cosa dobbiamo questo scatto al ribasso dei mercati? Perché si dice spesso, no? Buy on rumors, sell on news, ossia compra sulle indiscrezioni e vendi nel momento nel quale arriva la notizia, e questo spesso accade per quanto riguarda le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea, ma anche della Fed naturalmente. E però, insomma, è stata una vendita un po' potente quella di oggi. No, ma è andata esattamente così, nel senso che c'erano delle attese, dal mio punto di vista, esagerate su quello che poteva essere l'azione della Banca Centrale Europea oggi. Il taglio del tasso era abbastanza atteso dai mercati. Ci sono stati anche degli elementi positivi, come l'azzeramento del tasso di deposito presso la banca centrale. Questo dovrebbe dare maggior respiro all'utilizzo della vecchia liquidità data alle banche con le famose asse a 3 anni, che per il momento sono state in buona parte depositati e non messi in circolo nell'economia, ma anche negli investimenti. Dall'altro lato c'erano comunque anche delle attese per quanto riguarda un'azione più incisiva per la riduzione degli spread, quindi eventualmente messaggi o di ulteriori atti di liquidità o eventualmente di azioni più incisive per questo fattore dello spread. È chiaro che le attese erano esagerate. Una volta uscita la notizia, chiaramente il mercato ha avuto la sua reazione, direi anche abbastanza violenta. Sì, reazione violenta che adesso si sta, come si dice, lentamente assestando. Il FTSE MIB cede il 2,10%, comunque in netto ribasso, il FTSE All Share l'1,87%, giù come sempre in questi casi molte banche, che sono tra l'altro state sospese a ribasso nel corso della seduta. Unicredit perde il 5,13%, UbiBanca il 4,8%, Intesa San Paolo il 4,3%, la Popolare di Milano il 4,17%, solamente per fare qualche esempio. Quindi, Spreafico, il mercato si aspettava anche che una parte del mercato si attendeva, oltre ad un taglio più consistente probabilmente, anche l'annuncio probabilmente di una nuova iniezione di liquidità. Sì, quello, oppure un qualche messaggio ulteriore a seguito proprio di quello che è stato l'assist dato alla Banca Centrale Europea dall'ultima riunione della Commissione Europea, dove ha dato già delle indicazioni su quello che è stato il meccanismo salva spread e poi quello che poteva essere eventualmente il ruolo della BCE nell'attuare questo meccanismo. Quindi molti si aspettavano qualche novità in più, queste novità non sono arrivate, quindi è chiaro che c'è stato un effetto, oserei dire, esagerato. Anche se va letta però questa azione della Banca Centrale Europea anche da un lato abbastanza positivo, e probabilmente gli effetti li vedremo fra qualche giorno, perché questo azzeramento del tasso di deposito potrebbe indurre, stimolare le banche a rimettere in circolo, come dicevo prima, la liquidità presa a prestito. Perché questi sono soldi che loro depositano presso la BCE, e se la BCE gli dice che il tasso di interesse al quale lo depositano è zero, tutto sommato gli potrebbe convenire rimetterli in circolo nell'economia. Potrebbe convenire, anche se paradossalmente nel brevissimo termine, visto la condizione nervosa dei mercati, questo tipo di mossa potrebbe più aiutare la Germania, perché ancora una volta molti flussi potrebbero andare verso i paesi cosiddetti, diciamo, AAA, e quindi avere un deposito, anche se tassi praticamente quasi a zero, ma qualcosa in più rispetto al deposito BCE può dare, e quindi rischia di essere ancora qualche giorno di confusione, ma credo che sia una mossa che però possa attivare poi e stimolare le banche a impiegare in modo più equo questa liquidità. Ultima domanda, brevemente, l'effetto invece sui rendimenti dei titoli di Stato e quindi conseguentemente anche sugli spread, sia italiani che spagnoli, è stato particolarmente duro? Certo, perché proprio non c'è stato nulla a favore del nostro paese, diciamo, di questa dinamica ingiustificata di spread, soprattutto per l'Italia, e quindi è chiaro che sembra anche la riduzione dei tassi un po' un aiutino dato agli altri, soprattutto alla Germania, perché a noi interessa molto di più la riduzione dello spread che il tasso ufficiale, perché ci possono ridurre di 25 basis point l'Euribor, però se paghiamo 4 punti di premio a rischio superiore rispetto alla Germania, questo significa essere un problema che non può essere deciso attraverso una riduzione dei tassi ufficiali. Grazie a Mario Spreafico per essere stato con noi, direttore investimenti di Schroders Italia, e buonasera. Grazie a voi. Noi, fatto questo primo quadro dei mercati, poi ci torneremo anche sui singoli titoli più avanti. Andiamo con le notizie in breve di oggi. Iniziando come sempre dalle materie prime, è l'oro che apre in lieve calo a 1614,93 dollari l'oncia a New York. Scusate, non a New York, in realtà a New York parliamo del petrolio. Petrolio che per quanto riguarda appunto quello quotato a New York, il WTI è in lieve rialzo dello 0,54%, 86,52 dollari al barile, quello con consegna d'agosto. Per quanto riguarda il Brent, sopra i 100 dollari al barile a 101,09, il rialzo è dell'1,28%. Notizia sempre che riguarda il petrolio: la compagnia petrolifera, e questo ha avuto l'impatto sul Brent, la compagnia petrolifera norvegese Statoil ha annunciato che da lunedì a mezzanotte bloccherà la produzione degli impianti su terra a causa di uno sciopero. Questa è stata la notizia che ha fatto muovere in maniera così potente il Brent, che in apertura di seduta saliva del 2,5%. Si è parlato dei tassi di interesse europei, ma c'è un'altra notizia importante che sembra confermare i segnali di debolezza economica che arrivano dalla Cina, perché c'è stato un nuovo taglio dei tassi di interesse. Dopo la decisione del 7 giugno scorso, la Banca Popolare Cinese ha annunciato una sforbiciata dello 0,25% ai depositi ad un anno, che scendono al 3%, ed una dello 0,31% al tasso sui prestiti, che scendono al 6%. Della decisione della BCE vi abbiamo detto, il taglio è stato di un quarto di punto, allo 0,75%, e per la prima volta i tassi scendono sotto l'1%. Per quanto riguarda l'Italia, Consiglio dei Ministri riunito per il varo del decreto sulla spending review, previsto in serata. Sale la tensione tra le regioni e il governo sul tema dei tagli alla sanità, si stanno rincorrendo in questi minuti notizie sulle bozze. Prima è circolata voce che gli ospedali non sarebbero stati tagliati, poi è arrivata la conferma invece che nella bozza c'è il taglio degli ospedali sotto i 120 posti letto. Nella bozza comunque sarebbe confermato lo stop all'IVA, sterilizzare l'aumento di 2 punti percentuali dell'IVA anche dopo il 1 luglio del 2013. Ci sono tagli per i cosiddetti consumi intermedi, per quanto riguarda naturalmente la pubblica amministrazione, del 5% nel 2012 e del 10% dal 2013, e tagli ai ministri senza portafoglio. 5 milioni in meno per il budget di Palazzo Chigi, 10 a decorrere dal 2013, taglio di 200 milioni del fondo per l'università. Italia alla sanità, in particolare, sono insopportabili secondo le regioni, quindi il governo cambi rotta o sarà rottura istituzionale. E poi ci sono i dati dell'Istat sui consumi, sulla spesa delle famiglie. Nel 2011 è stata pari a 2.488 euro, un più 1,4% rispetto all'anno precedente. Spesa che risulta stabile in termini reali nonostante la dinamica dell'inflazione. Il valore mediano della spesa mensile per famiglia è pari a 2.078 euro. E però l'Istat ci comunica che nel 2011 il 35,8% delle famiglie ha diminuito la quantità o la qualità dei prodotti alimentari acquistati rispetto al 2010. È in aumento la quota di famiglie del Mezzogiorno che acquista generi alimentari presso gli hard discount. 6 italiani su 10 sono costretti a fare lo slalom tra gli sconti a caccia di offerte speciali tra corsie dei supermercati, mentre circa la metà dei consumatori fa addirittura la spola tra diversi negozi per confrontare i prezzi più convenienti. Ancora dati dall'Italia, quelli dell'INPS sulla cassa integrazione: in giugno un calo del 9,6% rispetto a maggio, ma un incremento del 16,2% rispetto a giugno dello scorso anno. Sono le ore di cassa integrazione autorizzate. E ora, prima di passare a parlare di politica monetaria, qualche notizia su cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Iniziamo dal Vaticano, notizia che in parte avete già sentito nei giornali radio, insomma sta facendo un bel giro. E perché? Perché il Vaticano è in rosso. Il bilancio della Santa Sede chiude il 2011 con un disavanzo di quasi 15 milioni di euro. Il Consiglio dei Cardinali competente in materia dice che su tale risultato ha influito l'andamento negativo dei mercati finanziari mondiali, che non ha consentito di raggiungere gli obiettivi preventivati. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? È arrivato finalmente il via libera definitivo dell'Aula del Senato al disegno di legge che prevede il taglio del finanziamento dei partiti. Il testo stabilisce anche che i 165 milioni dell'ultima tranche di rimborsi elettorali siano girati ai terremotati dell'Emilia. Questa è anche una buona notizia, tra l'altro. Sarà legge dopo la pubblicazione in Gazzetta tra 15 giorni. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Notizia pubblicata oggi dal Corriere della Sera, ma insomma in parte già nota, è il raffronto che fa impressione. Allora, esiste in Italia un ufficio pubblico dove c'è un dirigente ogni 6 impiegati, un dirigente ogni 6. È la presidenza della regione siciliana, insomma quante volte ce ne siamo occupati della Sicilia. Ma il governatore Raffaele Lombardo non è l'unico in Europa a guidare un esercito pieno zeppo di generali. Questo avviene però non, come dire, in un'altra regione d'Europa, ma viene a Downing Street. Anche a Downing Street, ossia la sede del governo inglese, ogni dirigente ha in media 6 sottoposti. Anche i numeri sono gli stessi. Il premier David Cameron ha 198 dirigenti, Lombardo 192. E ora passiamo al primo argomento di giornata, ossia la decisione, le decisioni della BCE e le parole di Mario Draghi. Come già si diceva, la Banca Centrale Europea ha deciso di abbassare il tasso di riferimento principale di Eurolandia ai 25 punti base, portandolo allo 0,75% per la prima volta sotto l'1%. È interessante, come già si segnalava prima, come già ci segnalava Mario Spreafico, la mossa di portare a zero il tasso sui depositi da quota 0,25%. Martedì i depositi delle banche presso l'Eurotower erano saliti al massimo degli ultimi 2 mesi. Saluto Alessandro Merli per il Sole 24 Ore a Francoforte. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Allora, forse non è esattamente quello, già si diceva prima, esattamente quello che si attendevano i mercati, almeno a giudicare dalla reazione, però ci sono un paio di mosse interessanti, a partire forse da questa. Al di là del taglio di 25 punti base, che probabilmente era scontato, c'è questa mossa interessante di portare a zero il tasso sui depositi. Sì, credo che i mercati si aspettassero il taglio dei tassi sul rifinanziamento alle banche di 25 punti base, il tasso principale che usa la BCE, e non si aspettassero tanto, o perlomeno erano divisi su questa questione del tasso sui depositi, perché la BCE lo ha fatto per togliere anche questo incentivo alle banche di ridepositare presso la stessa BCE i soldi che hanno, la liquidità che hanno, e quindi remunerandole a zero, probabilmente le banche dovrebbero essere spinte a prestare questi soldi o ad altre banche, rivitalizzando un po' l'interbancario che è pressoché paralizzato, oppure all'economia reale. Bisogna vedere se questa mossa basterà. Lo stesso Draghi è sembrato leggermente scettico, nel senso che poi ha ripetuto più volte che il fatto che non c'è credito è dovuto soprattutto al fatto che non c'è domanda di credito, e quindi non so se questo sarà una mossa sufficiente. Per quello che riguarda la reazione dei mercati in genere, mi sembra che più che alle questioni dei tassi, alle decisioni sui tassi, abbiano reagito al fatto che Draghi abbia detto che la crisi sta peggiorando e probabilmente è destinata a peggiorare ancora, cioè ha detto che si sono materializzati alcuni dei rischi al ribasso, insomma non è stato proprio ottimista sugli scenari dell'economia. E allora sentiamo proprio il presidente della Banca Centrale Europea sul taglio dei tassi e sulla crescita. Based on our regular economic and monetary analysis, sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base. La pressione sull'inflazione è calata ulteriormente e le attese circa l'inflazione per l'area euro restano saldamente ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. Allo stesso tempo, la crescita economica della zona euro resta debole e permane un'elevata incertezza. Sulla decisione di oggi posso dire che è stata presa all'unanimità su tutti i fronti ed è un elemento che credo rafforzi in modo particolare questa decisione. Riguardo il quadro economico dell'area euro, per quanto debole sia il quadro economico, non è però grave come quello del 2008-2009. Non ci troviamo assolutamente come a quel tempo. Siamo in una situazione con crescita sostanzialmente a zero e continuiamo ad attenderci un lento avvio di ripresa a fine anno, anche se si sono materializzati i rischi al ribasso a carico dell'attività economica. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, siamo con Alessandro Merli che per il Sole 24 Ore a Francoforte. Ci scrive un ascoltatore: questa crisi è nettamente peggio del 2008, ma dove vive Draghi? E un altro: a cosa serve la BCE se non stampa denaro? In realtà, Alessandro, è il solito problema, cioè c'è un limite al mandato della Banca Centrale Europea che alcuni paesi hanno provato a far saltare, ma sui quali limiti la Germania e la Bundesbank sono sempre rimaste molto rigide e molto fredde. Sì, naturalmente sulla questione se la crisi sia peggio o meglio del 2008, Draghi non è di questo, appunto, è dell'avviso che sia, che fosse peggio nel 2008. Non dimentichiamo che nel 2008 abbiamo avuto una recessione con una contrazione del PIL superiore al 5%, parlo solo dell'Italia, ma altri paesi non ci sono andati molto lontani. Per il momento a questi livelli ancora non ci siamo, né ci siamo avvicinati al possibile meltdown, al possibile collasso del sistema finanziario così tanto come nel 2008. Per quello che riguarda quello che può fare la BCE, ha un mandato che è fissato dal trattato e quindi dagli accordi che sono stati presi fra i paesi europei. Non è che la BCE di sua spontanea volontà improvvisamente può decidere di fare il contrario. Già si dice che la BCE è troppo indipendente, che questi burocrati agiscono senza rispondere a nessuno. Ora, una volta che i governi hanno fissato che la BCE debba agire in un certo modo, io credo che la BCE debba attenersi a questo. Poi naturalmente se la volontà, diciamo, popolare espressa attraverso i governi in Europa è che la BCE debba stampare moneta, la BCE si adeguerà. Sentiamo a questo punto il presidente della Banca Centrale Europea sul tema di quello che è stato deciso durante il vertice europeo nella notte tra giovedì e venerdì. We welcome the European Council conclusions of 29th of June of 2012. Accogliamo positivamente le conclusioni del vertice del 29 giugno scorso sulle azioni da intraprendere per affrontare le tensioni del mercato, ristabilire la fiducia e avviare la crescita. Concordiamo sul fatto che l'unione economica e monetaria debba avere basi più solide in futuro. Una crescita economica sostenibile, conti pubblici a posto e riforme strutturali per aumentare la competitività restano le priorità. Accogliamo con favore anche la decisione di sviluppare una roadmap specifica per raggiungere una vera unione economica e monetaria. Riteniamo che sia positiva anche l'iniziativa che prevede la diretta ricapitalizzazione delle banche e l'uso delle FSF e delle ESM in maniera flessibile ed efficiente, allo scopo di stabilizzare i mercati. In a flexible and efficient manner in order to stabilize markets. Continuate a scriverci, la BCE è troppo indipendente, ma se è schiava dei tedeschi, il problema non è una questione di schiava o non schiava dei tedeschi, è quello che ci dice Alessandro Merli, è un'indipendenza relativa rispetto a quelli che sono i trattati. Alessandro, però io a questo punto ti vorrei coinvolgere invece sulla visione che ha Draghi, anche cercare di andare oltre le parole di un presidente di una banca centrale, di una guida di una banca centrale che sono necessariamente non mai troppo enfatiche, la visione su quel che è successo tra giovedì e venerdì. Sembra un'idea complessivamente positiva, anche se c'è una certa cautela su questo scudo antispread, è una nostra impressione. No, un'impressione assolutamente corretta. Una delle ragioni per cui Draghi è molto positivo, piuttosto positivo sui risultati del vertice è perché in parte le cose che sono state decise sono cose che lui chiedeva da tempo. La prima è questa roadmap, diciamo questo scadenziario, questo percorso che dovrà essere fissato su dove vuole andare l'unione monetaria. Questa è stata una precisa richiesta di Draghi. L'altra, quella di ricapitalizzare direttamente le banche attraverso il fondo salva stati ISM, e anche questa era una cosa che era stata chiesta pubblicamente dalla BCE, quindi è chiaro che avendo ottenuto delle cose che aveva chiesto Draghi si dichiara soddisfatto. Per quello che riguarda il meccanismo anti-spread cosiddetto, Draghi è stato forse più sulla linea della Merkel che non su quella di Monti, cioè ha ribadito il fatto che per avere questi interventi sui mercati da parte dei fondi salva stati a sostegno del debito pubblico di alcuni paesi, si parla ovviamente soprattutto di Italia e Spagna, ci si deve sottoporre ad alcune condizioni ben precise, che senza queste condizioni gli interventi non sarebbero credibili. Quindi non è che questi interventi sono, diciamo così, gratuiti, ma dovranno essere sottoposti a delle condizioni precise di un programma che questi paesi abbiano concordato, che poi questo sia fatto semplicemente rispettando gli impegni già presi con la Commissione, non con l'invio della cosiddetta troica come è stato fatto per i paesi come Grecia, Irlanda e Portogallo, questo è un altro discorso. Però Draghi ha sottolineato tre volte, in risposta proprio a una mia domanda, che tutto è sottoposto a condizionalità. Grazie ad Alessandro Merli, che per il Sole 24 Ore a Francoforte. Buonasera. Noi chiudiamo invece ascoltando le parole di Draghi sulla supervisione delle banche, la supervisione, il nuovo impegno di supervisore unico del sistema bancario. Sentiamo. La BCE deve rimanere indipendente nel suo impegno di supervisore unico del sistema bancario. Ci aspettiamo che sulla proposta ci sia un forte impegno politico da parte dei leader europei. Qualsiasi proposta arriverà dalle istituzioni europee, questa deve poter mettere la BCE nelle condizioni di non avere rischi per la propria reputazione. I nuovi impegni dovranno essere separati da quelli di politica monetaria per evitare contaminazioni. La BCE lavorerà contando sui supervisori nazionali e questo è molto importante, anzi essenziale. Io stesso sono stato supervisore per 6 anni come governatore della Banca d'Italia e so fin troppo bene la storia, le capacità e le tradizioni dei supervisori nazionali. The history and the traditions are at national level. Così, dunque, Mario Draghi, che come già si diceva non si sbilancia sulla possibilità di una nuova iniezione di liquidità, sono misure temporanee, non prendiamo impegni ex ante, dice. È il momento della borsa. La giornata l'abbiamo in parte commentata all'inizio della puntata, come avete sentito, con Mario Spreafico, direttore investimenti di Schroders. Chiusura, meno 2,03% sul FTSE MIB, meno 1,79% sul FTSE All Share. Madrid giù di oltre 2 punti percentuali, Parigi dell'1,17%, Francoforte dello 0,45%, l'America in questo momento è negativa con il Dow Jones che cede lo 0,23%, il Nasdaq in lieve rialzo e lo Standard & Poor's 500 in calo dello 0,36%, e l'euro che quota 1,2377 contro dollaro. Dopo il taglio dei tassi c'è stato una netta discesa per la valuta. Livia Zancaner di Radio Core Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, in parte l'abbiamo commentato prima, i mercati forse si attendevano, sbagliando, qualcosa di più da Draghi e dalla Banca Centrale Europea. Forse c'è anche qualcos'altro che pesa, questo taglio dei tassi da parte della Cina, che fa sospettare che la recessione estenda i suoi tentacoli, per così dire. Sì, allora i mercati oggi hanno risentito di una serie di fattori. Da un lato, come dicevi tu, la mossa della BCE, in particolare del taglio dei tassi, era attesa dai mercati, quindi dopo la notizia i realizzi hanno prevalso. Ricordiamoci anche che i mercati sono reduci da recenti guadagni. Milano nelle ultime 6 sedute ha guadagnato quasi l'11% circa, quindi diciamo così, il taglio dei tassi da parte della BCE è stato anche il pretesto per prendere profitto. E poi dobbiamo ricordarci anche che lunedì prossimo si terrà una riunione dell'Eurogruppo che dovrà implementare le misure prese la settimana scorsa dai leader europei, quindi vi sono anche attesa per questa riunione e aumentano i timori che vi possa comunque essere qualche imprevisto, per cui in linea di massima oggi i listini hanno sofferto di una serie di fattori. E come sempre in questi casi chi soffre di più sono le banche. Unicredit giù del 5,13%, UbiBanca del 4,8%, Intesa San Paolo del 4,40%, il Monte dei Paschi del 4,35%, la Popolare di Milano del 3,5%, la Popolare Emilia Romagna del 3,32%, il Banco Popolare del 3,22%, anche Mediobanca scende del 2,7%. Ancora sui mercati con Livia Zancaner di Radio Core Il Sole 24 Ore. Ci chiedete intanto se la Banca Centrale Europea ha abbassato i tassi. Sì, li ha abbassati di 25 punti base allo 0,75%, sotto l'1% per la prima volta nella storia. Andiamo però ai titoli positivi, Livia. Ansaldo, Finmeccanica più 3,87% e più 2,21% rispettivamente. Sì, allora i due titoli hanno beneficiato delle indiscrezioni sull'arrivo di un'offerta di acquisto da parte di Siemens per Ansaldo Energia. Secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore, il valore dell'offerta sarebbe di 1,3 miliardi di euro, una valutazione superiore a quella ipotizzata dal mercato. Il quotidiano scrive inoltre che la posizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica Orsi potrebbe essere traballante a causa delle inchieste sulla società, ma diciamo che i due titoli hanno beneficiato delle voci sull'arrivo di un'offerta imminente. Motivi particolari per i quali salgono anche Prysmian più 0,73% e Autogrill più 0,62%? Allora, diciamo che Prysmian è tornata a salire dopo. No, lo chiedo perché la giornata è stata piuttosto cupa, quindi insomma vedere titoli in positivo fa piacere. No, assolutamente sì. Per quanto riguarda Autogrill non ci sono particolari notizie se non una conferma di una notizia che era già stata data. Per quanto riguarda Prysmian, Ricordiamo che dopo una battuta d'arresto di ieri il titolo è tornato a salire, le azioni hanno guadagnato oltre il 14% in 5 sedute dalla chiusura dal 26 al 3 luglio. Due giorni fa la società ha annunciato l'aggiudicazione di una commessa da 5 milioni di euro e diciamo che questo ha contribuito ad accumulare gli acquisti sul titolo. Sono andate male un po' tutte le utilities e infatti in quella massa di ribassi bancari che abbiamo visto prima c'è anche nel Green Power che perde il 4,13%. Sì, diciamo che il comparto utility sta soffrendo anche in Europa, oggi ha perso l'1%, a Milano hanno perso terreno nel Green Power, A2A, Enel e anche Snam. Ricordiamo che per quanto riguarda Snam, ieri la società ha collocato un bond a 4 anni da 1 miliardo di euro. Questa mattina gli analisti sottolineavano che il tasso complessivo pari al 4,4% è sopra le indicazioni fornite dalla società. Ciò significa si potrebbe tradurre in un incremento del costo del debito medio e anche questo, oltre ovviamente all'andamento del comparto europeo, ha contribuito a penalizzare il titolo in borsa. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, a Livia Zancaneri in particolare. Livia, buonasera. Grazie, buonasera anche a voi. Noi adesso cambiamo argomento e rimaniamo però sui mercati per parlare ancora una volta della vicenda, dello scandalo che ha riguardato la manipolazione del tasso LIBOR da parte delle banche inglesi, perché si inizia a parlare anche di quello che ci riguarda più direttamente da qualche anno, ossia l'Euribor. Lo ripetiamo sempre perché può sembrare a volte che parliamo di cose strane, di cose che riguardano solamente gli addetti ai lavori, invece è una vicenda estremamente rilevante. Innanzitutto perché queste parole LIBOR e Euribor le conoscete benissimo se avete un mutuo, perché sono i tassi di interesse che fanno da riferimento, a cui vengono indicizzati i vostri mutui, e questi tassi sarebbero stati manipolati, o meglio il LIBOR lo è stato sicuramente, sull'Euribor non ci sono ancora certezze. Perché sono i tassi con i quali, per farla molto semplice, le banche si prestano denaro l'una con l'altra. Che cosa avrebbe fatto Barclays? Barclays, che ha il dovere, insieme ad una serie di altre banche, di comunicare a quale tasso le viene prestato il denaro, avrebbe comunicato un tasso più basso per sembrare in una condizione finanziaria migliore rispetto a quanto non fosse effettivamente. La vicenda riguarda Barclays, ma non riguarda solamente Barclays, riguarda molte altre banche, potenzialmente moltissimi istituti. Saluto Fabio Pavesi, collega del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunto in studio. Fabio, buonasera. Buonasera a te, agli ascoltatori. Allora, l'abbiamo fatta molto semplice, ma il senso è questo, anche per dirvi che sull'Libor viaggia una cosa come 350 trilioni di dollari di transazioni all'anno e sull'Euribor 220 trilioni di euro o di dollari, Fabio? Sono dollari. Sempre 220 trilioni di dollari di transazioni all'anno, quindi parliamo di cifre enormi, transazioni finanziarie, insomma, sono tassi che fanno da base per una serie di transazioni finanziarie, quindi parliamo di uno scandalo potenzialmente enorme. Voglio con te, Fabio, venire a questa questione dell'Euribor, perché dell'Euribor abbiamo parlato tantissimo nei giorni scorsi, abbiamo parlato anche delle dimissioni di tutta la testa di Barclays, presidente, amministratore delegato e direttore generale. L'inchiesta inglese va avanti, il governo e la politica promette che sarà naturalmente molto dura, come deve fare in questi casi, e vedremo in cosa evolverà. Nel frattempo però emergono indicazioni anche per quanto riguarda appunto l'Euribor. Sì, diciamo che questo sospetto l'ha alzato la commissione d'inchiesta americana, che nel lungo memorandum di 45 pagine dell'atto d'accusa verso Barclays, su cui poi hanno transato, parlava ovviamente anche di manipolazioni sull'Euribor.

E allora a quel punto è probabile che abbiano manipolato anche verso il rialzo. Questa è tutta l'inchiesta aperta. Pensare però che le banche con la manipolazione abbiano favorito i clienti, direi che è molto discutibile. Probabilmente li hanno danneggiati e non è un caso che gli analisti, parlando di Barclays in questi giorni, dicono che si possono anche aspettare cause civili di gente che si è ritenuta danneggiata da queste manovre. Quindi il futuro di questa inchiesta è ancora molto, come dire, nebuloso, ma contemporaneamente promette sviluppi, nel senso che è difficile che dentro questa inchiesta così ampia, in cui Barclays, transando 450 milioni di multa, di fatto poi ha collaborato con le autorità, è probabile che nei prossimi giorni altre banche debbano finire sul banco degli imputati. In ogni caso, ripeto, questa storia che accade a distanza di un mese dal buco sui derivati, prima da 3 miliardi, poi da 6, poi da 9 di JP Morgan, la dice lunga sullo stato di salute della grande finanza internazionale, le grandi banche che non separano l'attività commerciale da quella di investimento. Obama su questo fronte ha fatto ben poco. E quindi, come dire, il triste epilogo è che dopo 4 anni dallo scandalo Lehman, ricordo che Lehman fallì a settembre 2008 e tra un po' ci saremo, le buone intenzioni hanno prodotto ben poco, perché vedo che, do ancora un dato, ma vale anche per le altre banche: Barclays ha attività per 1600 miliardi, ebbene 600 miliardi, quindi più di un terzo, sono attività investite in derivati. Quindi la banca è una grande fabbrica di derivati. Poi certo, agli sportelli vende i mutui, ma anche lì non è casuale. La parte di retail europea, cioè gli sportelli, sono in perdita per Barclays, se non da ieri, da qualche anno. È ovvio che se tu hai una banca configurata, un'attività commerciale, un'attività più speculativa, e quando l'attività commerciale va male, l'amministratore delegato della banca chiede all'attività speculativa di produrre i guadagni che perde l'attività commerciale. E qui non c'è da stupirsi che poi questi scandali avvengano, perché non è stata ancora fatta pulizia di quella grande magma delle grandi banche. Tra l'altro Fabio, se non ricordo male, in uno studio, quello studio di Mediobanca sui derivati che citavi proprio tu e del quale avete ampiamente trattato sul Sole 24 Ore, c'è una sorta di buco nei regolamenti di Basilea 3 che consente nella sostanza fa sì che i derivati non abbiano un effetto negativo sul patrimonio della banca, detta molto, molto in maniera molto brutale. Sì, perché in realtà i derivati per la gran parte sono negoziati fuori mercato, non hanno mercati regolamentati, e quindi operando fuori mercato e operando spesso anche fuori bilancio, alla fine spesso montagne derivati delle grandi banche di investimento vengono messi fuori bilancio appositamente per evitare impatti sul capitale. E ripeto, questa questione dei derivati, che ribadisco valgono 10 volte il PIL mondiale, quindi c'è una leva tra economia reale e finanza di carta di 1 a 10, sono il vero bubbone, la vera mina ancora inesplosa nella grande finanza internazionale. Quindi questo scandalo non ci deve stupire. Il problema è che dalla politica risposte in questo senso dopo la crisi Lehman ne sono arrivate ben poche. È 2 anni che parliamo di eurozona, di debito greco, ma ci siamo dimenticati che i grandi problemi che hanno portato al fallimento di una grande banca americana sono ancora tutti aperti, e questa inchiesta lo dimostra. Grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti. Tra l'altro oggi Moody's ha tagliato l'outlook, ossia la sua visione in prospettiva di Barclays dopo lo scandalo, da stabile a negativo. Così ha fatto anche Standard & Poor's. E su questo tema ha parlato anche il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Ascoltiamolo. Well, the LIBOR, I think there is an inquiry which is unfolding at the very same time we are speaking. It does show. Per ciò che riguarda la vicenda sul tasso LIBOR, c'è un'inchiesta in corso, ma devo dire che ha mostrato che un meccanismo considerato equo ed essenziale per il funzionamento dei mercati finanziari non lo era affatto. Penso che si debbano prendere delle misure per migliorare la governance di questo meccanismo, sia a livello di trasmissione dei dati, sia a livello di produzione del tasso di riferimento. È piuttosto chiaro che la governance era debole, se non mancante in entrambi i livelli. Sinceramente, non so cosa avrebbe fatto la BCE, ma spero che l'avrebbe fatto meglio. Frankly, I don't know what the ECB would have done, but I hope it would have done better. Le 18, 16 minuti e 21 secondi, dunque parliamo di spending review, ossia di revisione della spesa. Come sapete, ieri abbiamo ospitato un economista, Ettore Vergata, che aveva una visione abbastanza netta, nel senso che sosteneva che in periodo di recessione tagliare la spesa in questo modo in realtà non è una cosa che fa bene. Insomma, vogliamo ospitare un'opinione completamente diversa, perché è anche questo, a nostra opinione, il compito del mestiere, del mestiere di giornalista. Saluto Nicola Rossi, presidente dell'Istituto Bruno Leoni, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto poi le chiederò una valutazione su questo punto, perché c'è una scuola di pensiero che sostiene questo, quella più classicamente keynesiana, se vogliamo, e però nel frattempo c'è l'attualità che stringe e queste cose che stanno emergendo dalla bozza. Allora, pare che non ci sia saltato il taglio delle province o la razionalizzazione delle province, chiamiamola come vogliamo, e pare che, a mia opinione ancora peggio, sia saltata la stretta sui consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica. Questa, almeno nella bozza del decreto legge sulla spending review, in sostanza le municipalizzate, almeno quelle a totale partecipazione pubblica che erogano servizi in favore dei cittadini, non avranno i CDA tagliati. Un altro punto di spreco che abbiamo segnalato non solo da questi microfoni, ma insomma avete letto moltissimo sui giornali moltissime volte. C'è chi scherza, appunto, forse l'avrà sentito prima, se era già in ascolto, e dice spending maintaining. Insomma, i segnali, se dovessero essere questi, per carità, è sempre una bozza, non sono ottimi. Sì, io penso che segnali di questo genere sono esattamente quelli che ci fanno più male, perché non riesco a intravedere motivo alcuno per non intervenire sulle province dopo che una decisione è stata presa da tempo, dopo che è stato percorso, insomma, francamente è proprio incomprensibile, così come è incomprensibile non intervenire sui consigli di amministrazione delle, chiamiamole così perché facciamo prima, municipalizzate. Quindi veramente, se così fosse, mi spiacerebbe molto, perché penso veramente che sarebbe stato dato un segnale assolutamente non positivo. Io sono tra coloro i quali sono convinti, e credo di poter avere qualche argomento, che in questo momento un taglio di spesa non ha affatto effetti recessivi. Ricordo a tutti gli ascoltatori che lo stesso ministro Giarda, nel rapporto che è la base per la spending review, quantifica in circa 100 miliardi di euro la spesa pubblica derivante solo ed esclusivamente dal fatto che alcuni servizi vengono acquistati dalla pubblica amministrazione a prezzi diversi da quelli a cui acquista il privato. Questo dovrebbe chiarire, diciamo, in maniera netta che non ci potrebbe essere nessun effetto, diciamo, nessun impatto negativo sull'economia da una spending review fatta per bene e fatta sul serio. Certo, però, se si arretra di fronte al primo ostacolo, allora veramente casca. Ho l'impressione che a questo punto possa accadere esattamente ciò che è accaduto per la riforma sul mercato del lavoro. Ci si attendeva qualcosa, il governo aveva indicato un obiettivo, si è tornati indietro rispetto a quell'obiettivo e in quel momento, io credo, è cambiato, come si dice, il mood, la maniera di vedere l'azione del governo. E io credo che in questo momento il governo proprio non possa permetterselo. C'è il solito, diciamo così, blocco di resistenze da questo lato, probabilmente anche interne alla stessa pubblica amministrazione. Sicuramente, no, allora che la pubblica amministrazione, diciamo, veda la spending review fatta sul serio come fumo negli occhi, lo do per scontato, ma ecco, io vorrei segnalare, diciamo, che si è completata a dicembre e in tempi rapidissimi la riforma delle pensioni come doveva, non credo che ci siano motivo alcuno per non intervenire con la stessa nettezza, con la stessa chiarezza nei confronti, diciamo, della spesa pubblica. Io aggiungo anche che secondo me bisognerebbe andare, se posso, anche oltre quelli che sono gli obiettivi che ho letto sulla stampa negli ultimi giorni, perché il vero segnale da dare sarebbe quello di una riduzione della spesa accompagnata da un ritocco al ribasso di alcune aliquote fiscali. Quello sarebbe il vero segnale per il Paese. C'è chi dice, senatore Rossi, che alla fin fine, piuttosto che tagliare la spesa improduttiva, sarebbe meglio renderla produttiva in realtà. No, non giochiamo con le parole, diciamo. Dice, questo è credo l'argomento di chi vuole lasciare le cose come stanno. Io credo che un paese che ha una spesa pubblica che largamente ormai eccede il 50% e una pressione fiscale, diciamo, che nei confronti di chi paga le tasse ormai viaggia intorno al 55%, semplicemente non possa pensare di crescere. Quindi la strada è una sola: tagli di spesa per ridurre le imposte e restituire un po' di ossigeno al Paese. L'idea di riqualificare la spesa, il termine riqualificazione della spesa, io l'ho udito la prima volta che ero bambino quasi, non credo che abbia portato da nessunissima parte. Guardi, esattamente fa il paio con il termine semplificazione della pubblica amministrazione. Anche questo è un termine che ascoltiamo da lustri ormai, risultati zero. Se l'intervento non può che essere un intervento di taglio, bisogna riportare lo Stato e a smettere deve fare. Di solito si tende a fare il contrario. Chiaro, anche se abbiamo perso forse qualche parola alla fine. Grazie a Nicola Rossi, presidente dell'Istituto Bruno Leoni, per essere stato con noi e per averci dato la sua visione appunto sulla spending review, ossia la revisione della spesa, sulla quale, come si diceva, ci sono reazioni e resistenze forti, tra cui quelle delle regioni che dicono sulla sanità tagli insopportabili. La saluto, senatore, buonasera. Buonasera. Altro aspetto sono i risparmi previsti sull'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione. Dovrebbe diventare decisivo il ruolo della Consip, la centrale unica degli acquisti per la pubblica amministrazione gestita dal Tesoro, pensata per le spese dei ministeri e in modo facoltativo per gli enti locali. Anna, un recupero di efficienza e un risparmio grazie a un meccanismo già esistente corre online, si possono gestire gli acquisti in modo semplice senza pesare sui conti pubblici, soprattutto delle amministrazioni locali. Anna Marino ha chiesto come avviene e quant'è il risparmio all'amministratore delegato della Consip, Domenico Casalino, che annuncia minori costi pubblici per oltre 5 miliardi di euro nel 2013. Consip è la società dello Stato che svolge il ruolo di centrale di committenza, quindi la stazione appaltante che stipula contratti quadro da cui tutte le amministrazioni in maniera semplice, elettronica, con l'e-commerce della pubblica amministrazione, quindi con i procurement, riescono le amministrazioni ad acquistare semplicemente contratti che sono stipulati in base a delle grandi gare che aggregano il fabbisogno e che permettono alle amministrazioni di avere efficienza e prodotti e servizi di qualità, con un doppio effetto. Il primo effetto è quello delle opportunità che le amministrazioni hanno di risparmiare, di acquistare al meglio direttamente da strumenti Consip. Il secondo effetto è quello del benchmark, poiché questi prezzi spuntati e la qualità sottostante rappresentano un benchmark per tutte le pubbliche amministrazioni, l'effetto si amplifica e si moltiplica e quindi noi parliamo in questo secondo caso di spesa presidiata che nel 2011 è stata di 20 miliardi di euro, nel 2012 raggiungerà e supererà i 30 miliardi, arriveremo a 34 miliardi e contiamo di arrivare a 47 miliardi nel 2013 con tutte le operazioni in corso di messa a punto da parte del governo. Il risparmio è consistente anche dato dal fatto che c'è un'ampia platea a cui voi vi rivolgete e che gestite? Assolutamente sì. Questo perché i risparmi del 2011 sono stati pari a 4 miliardi e 400 milioni di euro dall'impiego diretto e indiretto dei nostri strumenti. Per il 2012 contiamo di superare i 5 miliardi, per il 2013 sicuramente qualcosa di più. Fare una gara costa a una pubblica amministrazione dai 50 ai 500 mila euro e questo è un punto molto importante perché lo stesso costo lo sostengono le imprese e allora per una gara di livello medio-basso, una gara tipica da 1 milione di euro, noi assistiamo che al fatto che le amministrazioni spendono circa 100 mila euro e altrettanto magari spendono i 10 partecipanti alla stessa gara, quindi bisogna evitare che si bruci 1.100.000 di valore per appaltare 1.000.000 di euro. Quindi accentrare, diciamo, queste gare serve, come dire, ottimizzare le spese che si possono fare. Fino adesso, diciamo, era volontaria l'adesione a questa procedura di acquisto, vero? In parte sì, in realtà gli strumenti della Consip prevedono un obbligo per le amministrazioni dello Stato e una facoltà per le amministrazioni territoriali, le amministrazioni non dello Stato, quindi degli enti territoriali. Il famoso effetto benchmark, fondamentalmente un'amministrazione non può comprare, supponiamo, un kilowattora per di energia elettrica per uffici a un prezzo superiore a un euro. Con questo effetto benchmark, che deve essere rispettato, sarà molto più, diciamo così, anche controllato, in maniera tale da evitare che si possano effettuare acquisti a valori superiori al benchmark stabilito. E questo porterà grandi, grandissimi risparmi alla finanza pubblica, ma soprattutto grande efficienza alle amministrazioni, che hanno bisogno di contratti che possano utilizzare in maniera innovativa, in maniera trasparente con i procurement, e che possano dare grande economia e innovazione anche al mercato. Quindi uno strumento, diciamo, per risparmiare nella spesa pubblica esisteva da tempo, bisognava solo utilizzarlo al meglio. Direi proprio di sì, e Consip fa parte del network delle centrali d'acquisto, la centrale nazionale, ma ci sono anche delle centrali territoriali d'acquisto efficienti, e questo sistema a rete può dare i migliori risultati alle aspettative del paese, oltre che del governo. Dall'altra parte dobbiamo ricordare però che non basta avere, come dire, negozi con prodotti di qualità, prodotti e servizi di qualità a prezzi convenienti. Occorre che le scelte d'acquisto siano gestite in maniera corretta, efficiente e virtuosa. È il momento in cui le persone delle amministrazioni, con le qualità del civil servant, vengano fuori e impieghino al meglio gli strumenti che hanno a disposizione. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Valeria Bernardi in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17:00.